Non ci siamo, ci sono. Il 6 novembre. Il 6 novembre, un giorno come gli altri, il Corriere riporta i dati, regione per regione, su chi ha pagato la tassa sul medico. 85.000, grazie, lo sa Dio perché. Dunque, dai dati emerge che in Campania ha pagato il 15% dei contribuenti, in Calabria il 18% e in Sicilia il 19%. In Trentino Alto Adige avrebbe pagato invece il 119%. Non occorre essere né leghisti né matematici per accorgersi che c'è qualcosa che non va. Comunque, il giorno dopo, il ministro Gallo annuncia che lui si sta dando da fare contro chi evade le tasse. Verranno infatti assunte 7.000 persone per rendere gli uffici del fisco più efficienti e tutti e 7.000 questi nuovi assunti verranno inviati negli uffici del Nord. Il che conferma quel che avevamo sempre sospettato. Evolutivamente sono favoriti i dottor Watson rispetto agli Sherlock Holmes. A Times Square, nel centro di Nuova York, verrà inaugurato l'Orologio Nazionale della Morte, un aggiornamento in tempo reale dei morti ammazzati da armi da fuoco in Stati Uniti. Escluso dunque il conteggio degli strangolati con le proprie mani, gli accoltellati, gli affettati, gli infilzati da frecce, i buttati dalla finestra e i dimenticati nelle corsie degli ospedali. Si computa soltanto una violenza selezionata nel paese che 2 anni fa, nel Kentucky, inaugurò la sagra della mitragliatrice. Vista la limitatezza della cosa, la cattiva coscienza degli americani rimarrà nelle medesime brutte acque, mentre invece ci guadagneranno le agenzie per le scommesse. A quanto mi dai 2 morti nei prossimi 10 minuti? Chiese il giovinotto tenendo una mano dietro la schiena. Trionfo della psicologia durante la crisi. L'attentato alla Costituzione infatti è stato svelato dal costituzionalista Gallo, e siamo al secondo Gallo nello stesso pollaio, come il reato di chiunque commette un fatto che esercita turbamento sulla psiche del Presidente della Repubblica. Con il che, da Moana Pozzi che sfila senza mutandine all'agente del servizio segreto che disubbidisce al regolamento e non brucia le fotocopie, tutti quanti, noi compresi, siamo rei potenziali, pronti per le prossime deportazioni. Non solo, hanno trovato uno psicologo che è riuscito a distinguere fra pentiti buoni e pentiti cattivi. Così la storia patria è salva. A differenza dei pentiti di mafia, dice lo psicologo, gli agenti segreti improvvisamente si sentono abbandonati e perdono ogni riferimento con la realtà, sottolineo ogni riferimento. Si tratterebbe di una vera e propria malattia psichica, detta la sindrome del canarino, che porta i soggetti in questione, testuale, a partire all'attacco con dichiarazioni che invariabilmente tendono a colpire il più in alto possibile, ritenendo di avere delle carte che giustificano queste affermazioni. Sottolineo il più in alto possibile e il ritenendo. Colgo l'occasione per ricordare che la psicologia è una scienza e questi esempi fanno capire alla perfezione che tipo di scienza sia. Perché poi la curiosa malattia degli agenti segreti sia stata definita sindrome del canarino, bisognerebbe chiederlo a quelli che, stando più in alto, sono afflitti dalla sindrome di gatto silvestro. Sembra che la CGIL sia in crisi finanziaria e oltre ai tanti problemi che ha già, debba affrontare anche quello della riduzione del personale, avendo attualmente in incarico in organico circa 2.000 funzionari in esubero, pari al 10-15% di quanti intrattengono con la connota Confederazione un rapporto continuativo. Per cui, in parole povere, licenzierà un dipendente su 10, che per un sindacato non è una bella cosa, e a qualcuno potrebbe sembrare persino autocontraddittorio, ma che ci volete fare? Da tempo i sindacati riconoscono la controparte il diritto di ristrutturarsi mandando personale in mobilità e non si vede perché non dovrebbero applicarlo a se stessi. gli iscritti calano, i soldi scarseggiano e bisogna tirare la cinghia. Però c'è una cosa che ci lascia perplessi. A quanto ci è sembrato di capire, prima si attuano tutte le procedure di incentivazione all'esodo volontario e di riorganizzazione indolore. Poi, quando bisogna proprio licenziare qualcuno, in CGL dico, verranno scelti i meno efficienti sul lavoro, coloro che meno di altri hanno realizzato gli obiettivi assegnati, in altre parole i più inetti. Niente da eccepire, è un sano criterio manageriale. E d'altra parte, se pensiamo a com'è oggi la condizione del lavoratore salariato in Italia, a come negli ultimi anni ci siamo visti calare il potere d'acquisto, il peso contrattuale, le garanzie occupazionali e quant'altro, è probabile che di sindacalisti netti nella CGL altrove ce ne siano parecchi. Ma visto che nulla garantisce che il livello di inettitudine sia maggiore tra impiegati e funzionari di base che non tra dirigenti, capi settore e responsabili vari, ci resta il problema angoscioso di chi licenzierà chi. Anche nel sindacato, in fondo, vale la vecchia domanda su chi ha il coraggio di scagliare la prima pietra. Ancora a proposito di sindromi, hanno fatto luce finalmente sulla sindrome di Pinocchio. Non gli psicologi, ma i neurofisiologi. Sembra che un funzionario francese della Comunità Europea, ogni volta che si metteva ad un tavolo di trattativa, fosse colto da crisi epilettica ogni qualvolta si accingesse a dire una bugia. Visto il mestiere che faceva, il numero delle crisi cui andava incontro, e immagino che certe trattative andassero anche per le lunghe, hanno deciso di aprirgli il cervello. Vicino alla regione limbica hanno trovato un tumorino benigno di 3 centimetri, alla cui pressione è stato attribuito il problema. Tolto quello, il funzionario ha potuto diventare un bugiardo normale. Spero che i neurochirurghi si siano ben segnati il posto esatto dove hanno trovato il robino. Forse si profila l'unica soluzione politica idonea per i nostri rappresentanti in Parlamento e per i massimi responsabili delle nostre sacre istituzioni. Il giorno prima Sama aveva detto che i CCT Enimont erano cambiati dalla Banca del Vaticano, testuale. Il giorno dopo il giudice Di Pietro dal Canada, parlando troppo in generale, ha detto: ora basta, ci vuole l'embargo economico per quei paesi che si pongono come oasi di impunità. Chiederemo che tutti si muovano contro il riciclaggio. Mi sembra una buona idea. Aspetto con ansia, conseguentemente, l'accerchiamento armato dello Stato del Vaticano, che Stato estero e riciclatore colto sul fatto è e rimane. Sarebbero tempi duri per i trafficanti di ostie. A tutti i fruitori di pensioni di invalidità che si sentono minacciati dall'intenzione espressa recentemente dal governo non soltanto di togliergli la pensione, ma di chiedere la restituzione con gli interessi degli assegni percepiti nel caso la loro invalidità non regga a uno scrupoloso esame ergosanitario, a questi confratelli raccomando la lettura della relazione per l'invalido che l'oratore Visia scrisse per un loro collega nel 403 circa avanti Cristo. La troveranno agevolmente nell'edizione tobneriana del Talheim o in quella oxoniense dello Jude, a meno che preferiscano ricorrere alla vecchia ma sempre valida traduzione italiana del Natale Vianello. L'invalido in questione, accusato di non essere affatto tale, tanto è vero che gestiva un negozio e nel tempo libero andava a cavallo, non perde tempo in minuzie. Dopo aver osservato che lui va a cavallo proprio perché è invalido, perché se no andrebbe a piedi, che ci sembra un buon argomento, va diritto al segno e fa osservare ai giurati che lui è sempre restato fedele al governo in carica. Visia notoriamente non ha mai perso una causa. Nello stesso giorno in cui viene presentata tra sfarzi e onori la nuova automobile della Fiat, la Punto, al Totocalcio tre signori vincono 5 miliardi e mezzo ciascuno. Al gazzettiere che racconta della vincita favolosa l'esempio viene facile, tanto per farmi capire meglio, no? pensa, con 5 miliardi e mezzo potresti comprarti 362 Fiat Punto modello base. Come se con 5 miliardi e mezzo non sapessi cosa potrei farci e ci fossero molte probabilità che me li spenda tutti in Fiat Punto. Ho capito, la lingua batte dove il padrone vuole. La pubblicità dice Fiat Punto, la risposta. La pubblicità non dice a quale domanda. Il sabato ha chiuso, eh? Finalmente una buona notizia. Si scopre che i nostri parlamentari, sentendosi più amati e stimati dal popolo, ritoccano le pensioni, prima le proprie, aumentandosi lo stipendio di 1.200.000 lire al mese, così arrivano a 16, un numero che pare fortunato, poi le nostre, aumentandole per un importo che va da 2 a 5.000 lire al mese. D'altronde, come c'è sempre qualcuno pronto a dirlo, no? Siamo tutti sulla stessa barca. Magari fosse vero, perché avrei almeno la probabilità di annegarne qualcuno. Tanti anni di comunismo, di quello vero, e uno dice chissà che risultati. Per esempio l'Albania, no? Che in Albania ci sia bisogno un po' di tutto lo si sa. Che in Albania ci fosse bisogno anche di tecnologie varie in campo giornalistico e di informazioni lo si può presumere. Che l'Albania abbia concluso in questi giorni un accordo con la Radio Vaticana per provvedere a queste manchevolezze può invece perfino risultare sorprendente. Come chiedere la dritta al bookmaker, insomma. Vabbè. Se i risultati poi sono questi, meglio lasciar perdere.